Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. 18ª puntata. La sala era vuota. La gente sedeva nell'angolo della porta accanto ad una donna che Marcello non ricordò di aver notato tra quelle che si erano presentate al suo primo ingresso. La gente le girava con un goffo gesto confidenziale, un braccio intorno alla vita, e non si curò di ricomporsi all'apparire di Marcello. Impacciato, vagamente irritato, egli stornò gli occhi da Orlando e li rivolse alla donna. Ella sedeva rigidamente, quasi avesse voluto in qualche modo respingere o almeno allontanare il compagno. Era bruna, con la fronte alta e bianca, gli occhi chiari, il viso lungo e magro, la bocca grande, ravvivata da un oscuro rossetto e di espressione forse sdegnosa. Era vestita in maniera quasi normale, un abito di seta scollato, sbracciato, bianco. Solo l'enocinio, la spaccatura della gonna che si apriva poco sotto la vita, scoprendo il ventre e le gambe accavallate, lunghe, asciutte ed eleganti, di una bellezza casta di danzatrice. Stringeva la sigaretta accesa tra due dita, ma non fumava. La mano era posata sul bracciuolo del divano, il fumo saliva nell'aria. L'altra mano la teneva abbandonata sul ginocchio della gente come, pensò Marcello, sulla testa fedele di un grosso cane. Ma ciò che lo colpì di più fu la fronte, non tanto bianca, quanto illuminata in maniera misteriosa dall'espressione intensa degli occhi. Una purezza di luce che gli fece pensare ad uno di quei diademi di brillanti di cui, un tempo, le donne si incoronavano ai balli di gala. Lo sguardo di Marcello si prolungava, attonito, e pur guardando, egli si accorgeva di provare non sapeva che doloroso senso di rammarico e di dispetto. Intanto, intimidito da quello sguardo insistente, Orlando si era alzato. «Il mio cappello», disse Marcello. La donna era rimasta seduta e lo guardava adesso a sua volta senza curiosità. La gente, sollecito, andò attraverso la sala a prendere il cappello su un divano distante. Allora, improvvisamente, Marcello capì perché la vista della donna gli aveva ispirato quel doloroso sentimento di rammarico. In realtà, come si accorse, egli non voleva che ella facesse il piacere della gente, e vederla subirne l'abbraccio l'aveva fatto soffrire come di fronte ad una profanazione intollerabile. Certamente, ella non sapeva nulla della luce che le raggiava sulla fronte e che non le apparteneva come non appartiene in genere la bellezza a chi è bello. Tuttavia gli pareva quasi suo dovere impedirle di inchinare quella fronte luminosa a soddisfare i capricci erotici di Orlando. Per un momento pensò di valersi della propria autorità per portarla via dalla sala. Avrebbero chiacchierato un poco e poi, appena fosse stato ben sicuro che la gente si era scelta un'altra donna, se ne sarebbe andato. Pensò pure, pazzamente, di toglierla dalla casa di tolleranza e avviarla ad un altro genere di vita. Ma pur pensando queste cose, si rendeva conto che erano fantasie. Ella non poteva non essere simile alle sue compagne. Come loro, irreparabilmente e quasi innocentemente, guasta e perduta. Poi si sentì toccare il braccio. Orlando gli porgeva il cappello. Macchinalmente lo prese. Ma la gente aveva avuto il tempo di riflettere su quel singolare sguardo di Marcello. Egli fece un passo avanti e, indicando la donna, un po' come si indicherebbe un cibo o una bevanda a un ospite di riguardo, propose: «Dottore, se lei vuole, se questa le piace, io posso anche aspettare». Dapprima Marcello non capì. Poi vide il sorriso di Orlando, insieme rispettoso e malizioso, e sentì di arrossire fino alle orecchie. Così Orlando non rinunziava. Si adattava soltanto, per cortesia di compagno e disciplina di inferiore, a farlo passare avanti. proprio come al banco di un bar o alla tavola di un buffet. Marcello disse in fretta: «Ma lei è matto, Orlando? Faccia quello che crede, io devo andar via». «In tal caso, dottore», disse l'agente con un sorriso. Marcello lo vide fare un cenno di richiamo alla donna e poi, con dolore, vide la donna a quel cenno subito alzarsi, ubbidiente e alta e dritta col suo diadema di luce sulla fronte, senza esitare né protestare, con semplicità professionale, venire incontro all'agente. Questi disse a Marcello: «Dottore, noi ci vediamo presto», e si fece da parte per lasciar passare la donna. Anche Marcello, quasi suo malgrado, si tirò indietro. E lei si avviò tra i due, senza fretta, la sigaretta tra le dita. Ma come fu davanti a Marcello, si fermò un istante e disse: «Se mi vuoi, mi chiamo Luisa». La voce, come egli aveva temuto, era grossa e rauca, priva di gentilezza. A queste parole Luisa credette di dover aggiungere un gesto di lusinga, tirando fuori la lingua e leccandosi il labbro superiore. Parve a Marcello che parole e gesto lo sollevassero in parte dal rimorso di non averle impedito di andarsene con Orlando. Intanto la donna, sempre precedendo la gente, era giunta alla scala. Ella gettò in terra la sigaretta accesa, la schiacciò col piede, sollevò con le due mani la gonna e prese a salire in fretta, seguita uno scalino più in basso da Orlando. Finalmente scomparvero dietro l'angolo del pianerottolo. Qualcuno, adesso probabilmente una delle ragazze e il suo cliente, discendevano la scala chiacchierando. Marcello uscì in fretta dalla casa. Dopo aver incaricato il portiere dell'albergo di chiamargli il numero di quadri, Marcello andò a sedersi in un angolo dell'atrio. Era un albergo grande e l'atrio era molto vasto, con colonne che ne sostenevano le volte, gruppi di poltrone, vetrine in cui erano esposti manufatti di lusso, scrivanie e tavoli. Molta gente andava e veniva dall'ingresso alla gabbia dell'ascensore, dal banco del portiere a quello della direzione, dall'uscio del ristorante ai salotti che si aprivano oltre le colonne. Marcello avrebbe voluto distrarsi nell'attesa con lo spettacolo di quest'atrio così allegro e popolato, ma come tirato giù verso il fondo della memoria dall'angoscia presente, il pensiero gli si volse quasi suo malgrado alla prima e sola visita che aveva fatto a quadri molti anni prima. Marcello era allora studente e quadri era il suo professore. Egli si era recato alla casa di quadri, un vecchio palazzo rosso nei pressi della stazione, per consultarlo sulla tesi di laurea. Appena entrato, Marcello era stato colpito dall'enorme quantità di libri accumulati in ogni angolo dell'appartamento. Già nell'anticamera aveva notato certe vecchie tende che parevano nascondere usci, ma scostandole aveva scoperto file e file di libri allineati dentro rientranze delle pareti. La cameriera l'aveva preceduto per un lunghissimo e tortuoso corridoio che sembrava girare intorno il cortile del palazzo, e anche il corridoio, da ambo le parti, era ingombrato da scaffali pieni di libri e di carte. Finalmente, introdotto nello studio di quadri, Marcello si era trovato tra quattro pareti anch'esse fittamente gremite di libri, dal pavimento fino al soffitto. Altri libri erano sulla scrivania, disposti l'uno sull'altro in due cataste ordinate, tra le quali, come ad una feritoia, si affacciava il viso barbuto del professore. Marcello aveva subito notato che quadri aveva un viso curiosamente piatto e asimmetrico, simile ad una maschera di cartapesta, dagli occhi orlati di rosso e dal naso triangolare, alla quale sulla parte inferiore fossero stati incollati in maniera sommaria una barba e un paio di baffi posticci. Anche sulla fronte, i capelli troppo neri e come madidi suggerivano l'idea di una parrucca male applicata. Tra i baffi a spazzola e la barba a scopetto, ambedue di una nerezza sospetta, si intravedeva una bocca molto rossa dalle labbra informi, e Marcello non aveva potuto fare a meno di pensare che tutto quel pelo mal distribuito nascondesse qualche deformità, come per esempio una completa mancanza di mento oppure una spaventosa cicatrice. Era insomma un viso in cui non c'era nulla di sicuro e di vero, tutto falso, proprio una maschera. Il professore si era alzato per accogliere Marcello e in questo gesto aveva rivelato la sua piccola statura e la gobba, o meglio, la deformazione della spalla sinistra, che aggiungeva un'aria dolorosa alla eccessiva dolcezza e affettuosità dei modi. Stringendogli la mano attraverso i libri, Quadri, con un gesto di miope, aveva guardato il visitatore al di sopra delle forti lenti, così che per un momento Marcello aveva avuto l'impressione di essere scrutato non da due, ma da quattro occhi. Aveva anche notato lo stile antiquato del vestito di Quadri, giacca da finanziere, nera, con risvolti di seta, pantaloni a righe neri anch'essi, camicia bianca, col collo e i polsini inamidati, catena d'oro sul panciotto. Marcello non aveva alcuna simpatia per Quadri. Lo sapeva antifascista e nella sua mente l'antifascismo di Quadri, il suo aspetto imbelle, malsano e laido, la sua erudizione, i suoi libri, tutto insomma, gli pareva che contribuisse a formare l'immagine convenzionale e continuamente additata al disprezzo dalla propaganda del partito, dell'intellettuale negativo e impotente. D'altra parte, la straordinaria dolcezza di Quadri ripugnava a Marcello come un tratto di falsità. Gli pareva impossibile che un uomo potesse essere così dolce, senza menzogna e senza secondi fini. Quadri aveva accolto Marcello con le solite espressioni di affettuosità quasi smancerosa, spesso intercalando parole come «caro figliuolo», «figliuolo mio», «figliuolo caro», agitando sopra i libri le piccole mani bianche. Gli aveva mosso una quantità di domande, prima sulla sua famiglia e poi su di lui, personalmente. Alla notizia che il padre di Marcello era ricoverato in una clinica per malattie mentali, aveva esclamato: «Oh, povero figliuolo, non lo sapevo, che sventura, che terribile sventura! E la scienza non può far nulla per ricondurlo alla ragione?» Ma non aveva ascoltato la risposta di Marcello ed era passato subito ad un altro argomento. Aveva una voce di gola, modulata e armoniosa, dolcissima, piena di apprensiva sollecitudine. Curiosamente, però, attraverso questa sollecitudine così svenevole e dichiarata, come una filigrana nella trasparenza di una carta, Marcello aveva creduto di indovinare una completa indifferenza. Quadri, nonché interessarsi veramente a lui, forse non lo vedeva neppure. Marcello era stato anche colpito dalla mancanza di sfumature e di sbalzi del tono di Quadri. Parlava sempre con lo stesso accento, uniformemente affettuoso e sentimentale, si trattasse di cose che richiedevano questo accento come di altre che non lo richiedevano affatto. Quadri, a conclusione delle numerose domande, si era finalmente informato se Marcello fosse fascista. E, avutane una risposta affermativa, senza cambiar tono né dare a vedere alcuna reazione, aveva spiegato in maniera quasi casuale quanto fosse difficile per lui, i cui sentimenti antifascisti erano ben noti, continuare in un regime come quello fascista l'insegnamento di materie quali la filosofia e la storia. A questo punto, Marcello, imbarazzato, aveva cercato di portare il discorso sul motivo della sua visita, ma Quadri l'aveva subito interrotto. «Forse lei si domanderà perché mai io le dica tutte queste cose, caro figliuolo. Gliele dico non oziosamente, né per sfogo personale, non mi permetterei di farle perdere il tempo che deve dedicare agli studi. Gliele dico per giustificare in qualche modo il fatto che non potrò occuparmi né di lei né della sua tesi. Lascio l'insegnamento». «Lei lascia l'insegnamento», aveva ripetuto Marcello, sorpreso. «Sì», aveva confermato Quadri, stropicciandosi con gesto abituale una mano sulla bocca e sui baffi, sebbene con dolore, con vero dolore, perché sinora avevo dedicato tutta la mia vita a voi altri, mi vedo costretto a lasciare la scuola. Dopo un momento, senza enfasi, con un sospiro, il professore aveva aggiunto: «Eh sì, ho deciso di passare dal pensiero all'azione. Forse la frase non le sembrerà nuova, ma rispecchia fedelmente la mia situazione». Lì per lì, Marcello aveva quasi sorriso. Gli era sembrato, infatti, comico questo professor Quadri, questo piccolo uomo in finanziera, gobbo, miope, barbuto, che tra le cataste dei suoi libri, seduto in poltrona, gli dichiarava che aveva deciso di passare dal pensiero all'azione. Il senso della frase, tuttavia, non era dubbio. Quadri, dopo essere stato per anni oppositore passivo, chiuso nei suoi pensieri, nella sua professione, aveva deciso di passare alla politica attiva, forse di darsi alla cospirazione. Marcello, con subitaneo soprassalto di antipatia, non aveva potuto fare a meno di avvertire con freddezza minacciosa: «Lei fa male a dirlo a me. Io sono fascista. E potrei anche denunziarla». Ma Quadri gli aveva risposto con estrema dolcezza, passando da lei al tu: «So che sei un buono, caro figliuolo, un onesto e bravo figliuolo, e so che non faresti mai una cosa di questo genere». «Che il diavolo se lo porti», aveva pensato Marcello indispettito, e con sincerità aveva risposto: «Potrei anche farlo. L'onestà, per noi fascisti, consiste appunto nel denunziare e mettere nell'impossibilità di nuocere persone come lei». Il professore aveva scosso la testa. «Caro figliolo, tu sai mentre parli che ciò che dici non è vero. Lo sai, o meglio, lo sa il tuo cuore. E infatti tu, da quel giovane onesto che sei, hai voluto avvertirmi. Un altro, sai, che avrebbe fatto? Un vero delatore. Avrebbe finto di approvarmi. E poi, una volta che mi fossi compromesso con qualche dichiarazione veramente imprudente, mi avrebbe denunziato. Ma tu mi hai avvertito». «L'ho avvertita», aveva risposto con durezza Marcello, «perché credo che lei non sia capace di ciò che chiama azione. Perché non si contenta di fare il professore? Di quale azione parla?» «L'azione... non importa dir quale», aveva risposto Quadri sogguardandolo fissamente. Marcello a queste parole non aveva potuto fare a meno di levare gli occhi verso le pareti, agli scaffali pieni di libri. Quadri aveva colto a volo quello sguardo e, sempre dolcissimamente, aveva soggiunto: «Ti pare strano, è vero, che io parli d'azione? Tra tutti questi libri, tu in questo momento pensi: ma di che azione va cianciando questo piccolo uomo, gobbo, storto, miope, barbuto? Di la verità. È questo quello che pensi? I giornaletti del tuo partito ti hanno tante volte descritto l'uomo che non sa e non può agire, l'intellettuale, e ti vien fatto di sorridere con compassione riconoscendomi in quell'immagine. Non è così?» Sorpreso da tanto acume, Marcello aveva esclamato: «Come ha fatto a capirlo?» «Oh, mio caro figliuolo», aveva risposto Quadri alzandosi in piedi, «mio caro figliuolo, l'ho capito subito. Ma non è detto che per agire bisogna avere un'aquila d'oro sul berretto e dei galloni sulle maniche. Arrivederci, ad ogni modo. Arrivederci, arrivederci, e buona fortuna. Arrivederci». Così dicendo, dolcemente, implacabilmente, aveva spinto Marcello verso la porta. Adesso Marcello, ripensando a quell'incontro, si rendeva conto che nel suo avventato disprezzo per Quadri, gobbo, barbuto e pedante, erano entrate molta impazienza e inesperienza giovanili. Quadri stesso, d'altronde, gli aveva dimostrato coi fatti il suo errore. Fuggito pochi mesi dopo il loro colloquio a Parigi, vi era diventato ben presto uno dei capi dell'antifascismo, forse il più abile, il più preparato, il più aggressivo. La sua specialità, a quanto sembrava, era l'apostolato. Giovandosi dell'esperienza didattica e della conoscenza della mentalità giovanile, riusciva spesso a convertire giovani indifferenti o anche di sentimenti contrari e poi a spingerli a imprese ardite, pericolose e quasi sempre disastrose, se non per lui che ne era l'ispiratore, per loro che ne erano i candidi esecutori. Egli non pareva provare, tuttavia, gettando questi suoi adepti nella lotta cospirativa, alcuna di quelle preoccupazioni umanitarie che, dato il suo carattere, si sarebbe stati tentati di attribuirgli. Anzi, li sacrificava con disinvoltura in azioni disperate che si potevano giustificare soltanto in piani a lunghissima scadenza e comportanti appunto per necessità una crudele indifferenza per la vita umana. Quadri, insomma, aveva alcune delle rare qualità dei veri uomini politici, o perlomeno di una certa categoria di costoro. Era astuto e al tempo stesso entusiasta, intellettuale e al tempo stesso attivo, candido e al tempo stesso cinico, riflessivo e al tempo stesso imprudente. Marcello, per obbligo di ufficio, si era spesso occupato di Quadri. Dalle relazioni della polizia, definito elemento pericolosissimo, ed era sempre rimasto colpito dalla capacità dell'uomo di accozzare insieme tante qualità contrastanti in un solo carattere profondo e ambiguo. Così, pian piano, attraverso quanto gli era riuscito di apprendere a distanza e per mezzo di informazioni non sempre precise, aveva cambiato il primo disprezzo in una indispettita considerazione, ferma tuttavia restando l'originaria antipatia, perché era convinto che a Quadri, tra tante qualità, mancasse quella del coraggio, come gli pareva dimostrato dal fatto che, pur spingendo i suoi seguaci in pericoli mortali, mai si esponeva personalmente. Trasalì tra questi pensieri alla voce di un servitore dell'albergo che, passando rapido per l'atrio, gridava ad alta voce il suo nome. Per un momento quasi pensò che fosse il nome di un altro, aiutato in questa illusione dalla pronunzia francese del servitore. Ma questo Monsieur Clarissy era pur tuttavia lui, come si rese conto con una specie di nausea quando, fingendo a se stesso di credere davvero che fosse un altro, cercò di immaginare come potesse essere lui, con il suo viso, la sua persona, i suoi panni. Intanto il servitore si allontanava in direzione della sala di scrittura, sempre chiamandolo. Marcello si alzò e andò direttamente alla cabina del telefono. Prese il ricevitore posato sopra la mensola e lo portò all'orecchio. Una voce femminile, limpida e un po' cantante, domandò in francese chi fosse all'apparecchio. Marcello rispose nella stessa lingua: «Sono un italiano, Clerici, Marcello Clerici, e vorrei parlare al professor Quadri. È molto occupato, non so se potrà venire. Avete detto che vi chiamate Clerici?» «Sì, Clerici». «Aspettate un momento». Ci fu il rumore del ricevitore deposto sopra una tavola, poi quello dei passi che si allontanavano e finalmente il silenzio. Marcello aspettò, a lungo, prevedendo che altro rumore di passi avrebbe annunziato il ritorno della donna oppure l'arrivo del professore. Invece tutto ad un tratto risuonò la voce di Quadri, scaturendo senza preavvisi da quel profondissimo silenzio. «Pronto? Quadri, chi parla?» Marcello spiegò in fretta: «Mi chiamo Marcello Clerici, ero un suo studente di quando lei insegnava a Roma. Desidererei vederla». «Clerici?» ripeté Quadri dubbiosamente. E poi, dopo un momento, con decisione: «Clerici? Non conosco». «Ma sì, professore», insistette Marcello. «Venni a trovarla pochi giorni prima che lei lasciasse l'insegnamento. Volevo sottoporle un progetto di tesi». «Un momento, Clerici», disse Quadri. «Io non ricordo affatto il suo nome. Ma questo non toglie che lei possa aver ragione. E lei vuol vedermi?» «Sì». «Perché?» «Per nessun motivo», rispose Marcello. «Siccome ero suo allievo e poi ho sentito in questi ultimi tempi molto parlare di lei, volevo vederla, ecco tutto». «Ebbene», disse Quadri in tono arrendevole, «venga a trovarmi a casa mia». «Quando?» «Anche oggi, nel pomeriggio. Dopo colazione, venga a prendere il caffè. Verso le 3». «Devo dirle», proferì Marcello, «che sono in viaggio di nozze. Potrei portare mia moglie?» «Ma si capisce, naturalmente. A più tardi». Il telefono fu abbassato e anche Marcello, dopo un istante di riflessione, rimise a posto il ricevitore. Ma non fece a tempo a uscire dalla cabina, perché quello stesso servitore, che poco prima aveva chiamato il suo nome per l'atrio, si affacciò dicendogli: «Vi desiderano al telefono». «Ho già parlato», disse Marcello facendo per uscire. «No, vi desidera un'altra persona». Meccanicamente rientrò nella cabina, staccò di nuovo il ricevitore. Subito una grossa voce bonaria e festosa gli gridò nell'orecchio: «Siete voi, dottor Clerici?» Marcello riconobbe la voce dell'agente Orlando e rispose con voce calma: «Sì, sono io». «Avete fatto un buon viaggio, dottore?» «Sì, ottimo». «La signora sta bene?» «Benissimo». «E di Parigi, che ne dite?» «Non sono ancora uscito dall'albergo», rispose Marcello un po' spazientito da questa familiarità. «Vedrete, Parigi è Parigi. Allora, dottore, vogliamo incontrarci?» «Certamente, Orlando. Ditemi voi dove». «Voi non conoscete Parigi, dottore. Vi do l'appuntamento in un luogo facile a trovarsi. Il caffè che fa angolo con Piazza della Maddalena. Non vi sbagliate. A sinistra, venendo da Rue Royale, a tutti i tavolini fuori, ma io vi aspetto dentro. Non ci sarà nessuno dentro». «Va bene. A che ora?» «Ci sono già al caffè. Ma aspetto quanto volete». «Tra mezz'ora». «A meraviglia, dottore. Tra mezz'ora». Marcello uscì dalla cabina e si avviò verso l'ascensore. Mentre entrava nella cabina, udì per la terza volta il solito servitore chiamare ad alta voce il suo nome e questa volta si meravigliò veramente. Gli venne quasi la speranza di un intervento sovraumano. Come se servendosi del corno di ebanite nera del telefono, la voce di un oracolo fosse per dirgli una parola decisiva sulla sua vita. Con cuore sospeso tornò sui suoi passi. Penetrò per la terza volta nella cabina. «Sei tu, Marcello?» domandò la voce carezzevole, languida della moglie. «Ah, sei tu!» Egli non poté fare a meno di esclamare, non sapeva se con delusione o con sollievo. «Sì, si capisce. Chi credevi che fosse?» «Niente, siccome aspettavo una telefonata». «Che fai?» ella domandò con un'inflessione di tenerezza struggente. «Nulla. Stavo appunto venendo su per avvertirti che uscivo e sarei rientrato tra un'ora». «No, non venir su, sto per andare nel bagno». «Va bene, allora ti aspetto tra un'ora nell'atrio dell'albergo». «Anche un'ora e mezza». «Un'ora e mezza, va bene. Ma non tardare, ti prego». «L'ho detto per non farti aspettare, ma vedrai che sarà un'ora». E la disse in fretta, come temendo che Marcello se ne andasse. «Mi vuoi bene?» «Ma si capisce. Perché me lo domandi?» «Così, se ora tu fossi presso di me, mi daresti un bacio». «Certo. Vuoi che salgo?» «No, no, non salire. E dimmi...» «Che cosa?» «Dimmi, ti piacevo stanotte?» «Che domande, Giulia!» Egli esclamò un po' vergognoso. Ella soggiunse subito: «Perdonami, non so neppure io quel che mi dico. Allora mi vuoi bene?» «Ti ho già detto di sì». «Perdonami. Allora siamo intesi. Ti aspetto tra un'ora e mezzo. Arrivederci, amore». Questa volta, come pensò riattaccando il ricevitore, non poteva aspettarsi più alcuna telefonata. Andò alla porta e, spingendo il tamburo di mogano e di cristallo, uscì nella strada.